Hadith numero 19. Abu Abbas a Abdullah bin Abbas, che Allah si compiaccia di ambedue, raccontò: un giorno mi trovavo dietro il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, ed egli mi disse: ragazzo, in verità ti insegnerò regole di vita fondamentali. Ricordati di Allah e Allah ti proteggerà. Ricordati di Allah e lo troverai davanti a te. Quando chiedi, chiedi ad Allah. E se chiedi aiuto, chiedilo ad Allah. Sappi che se la comunità si riunisse per giovarti in qualcosa, non ti gioverebbe se non in ciò che Allah aveva già scritto a tuo favore. E se si riunisse per danneggiarti in qualcosa, non ti danneggerebbe se non in ciò che già Allah aveva scritto in tuo danno. I calami sono stati alzati e le pagine sono asciutte. L'ha riportato a Tirmidhi, il quale ha detto: hadith buono e autentico. In una versione diversa da quella di At-Tirmidhi si legge: ricorda Allah, lo troverai davanti a te. Riconosci Allah nella tua agiatezza, lui ti riconoscerà nelle tue ristrettezze. Sappi che ciò che ti è mancato non ti toccava e ciò che ti è toccato non poteva mancarti. Sappi che la vittoria è con la pazienza, che il sollievo è con la preoccupazione e con la difficoltà è la facilità.